Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentornati a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a tutti. Una soluzione molto praticata da risparmiatori italiani delusi negli ultimi tempi da azioni e obbligazioni è stata quella dell'investimento in pronti contro termine. Gli italiani nel 2007 avevano investito in questi prodotti qualcosa come 120 miliardi di euro, un ammontare quasi doppio rispetto a quello registrato appena due anni prima, erano 75 miliardi nel 2005. Nel solo mese di dicembre dello scorso anno la raccolta ha registrato un aumento a due cifre, oltre il 10%, con una tendenza che sembrerebbe confermarsi anche per questa prima parte del 2009. Ma chi li distribuisce in Italia? Quanto rendono? Che taglio di investimento è possibile effettuare? A chi si adatta un tipo di investimento di questo genere? Il tema che affrontiamo questa mattina con Pier Emilio Gadda, analista di Osservatorio Finanziario, Stefano Cioffi, responsabile trading e investimenti di WeBank, e Franco Ravaglia, direttore generale di Fineco. Ovviamente, microfoni aperti come sempre alle vostre chiamate all'800 24 00 24, il numero per i vostri messaggi è il 349 238 6666, e la borsa, prima di cominciare ad entrare nel merito della nostra trasmissione. Le avete sentite le anticipazioni nel giornale radio, la giornata è piuttosto positiva. Un mercato che brinda questa azione di sostegno economico, definiamola così, che è stata fatta ieri, decisa ieri dalla Banca Centrale Americana, che ha deciso di riacquistare, con un'operazione anche piuttosto complessa, noi la sintetizziamo moltissimo, ha deciso di riacquistare titoli di Stato americani appunto sul mercato per un controvalore complessivo di 1.100 miliardi di dollari. Una iniziativa che ieri ha fatto bene a Wall Street, il Dow Jones ha chiuso con un rialzo dell'1,23%, il Nasdaq di quasi 2 punti, e che stamattina ha fatto partire a razzo anche le borse europee, di nuovo un rialzo di circa 1 punto, abbondante a Parigi e a Francoforte. Londra rimane un pochino indietro da questa mattina e guadagna lo 0,8%, mentre sta viaggiando letteralmente per conto suo Milano, che mette a segno anche oggi un progresso del 3,30%. Succede che sta volando Unipol. Il gruppo è in rialzo del 14%, c'è attesa per i conti, ma soprattutto sembra che si stia smontando questa ipotesi sulla quale scommetteva il mercato nelle ultime ore di un addio da parte dell'amministratore delegato Carlo Salvatori, in procinto di andare verso la Popolare di Milano. Invece il mercato, a quanto pare, questa ipotesi non ci crede più e il titolo vola. Unicredit, dopo i conti degli ultimi giorni, diffusi ieri, anzi l'altro ieri, poi ieri riconfermati nell'incontro a Londra con gli analisti finanziari dell'amministratore delegato Alessandro Profumo, anche oggi il titolo in rialzo del 10,5%, e ovviamente questa tendenza si porta con sé tutti gli altri titoli del settore bancario. Monte dei Paschi più 8, Fondiaria più 7,75, Intesa San Paolo più 7,33, il Banco Popolare più 6,45. Il mercato ha bocciato completamente il titolo dopo il lancio dell'offerta pubblica di acquisto su Banca Italise, poi ci ha ripensato, nel giro di 2 giorni ha recuperato completamente terreno. Bene anche Fiat, in rialzo di 5,5 punti, la Popolare di Milano più 4,88, Generali più 4,83, UbiBanca più 4,82, Alleanza più 4,69. Faccio questa bella lista così oggi rassereniamo l'animo di molti piccoli investitori che ci ascoltano. Non va molto bene oggi il settore editoriale, l'Espresso perde il 3,30%, Mediaset meno 1,12%, anche in questo caso dopo i conti, un po' la cura anticrisi che viene messa in campo dalle Biscione, il mercato un po' negativo. Sul titolo sono in discesa anche Finmeccanica, meno 3, Terna meno 2, Fastweb a ben ribasso di 1 punto. Sta invece volando l'euro sul dollaro per effetto di questa iniziativa della Banca Centrale Americana di cui vi abbiamo raccontato, che più che altro schiaccia il dollaro a 1,35%. 5 tondo in questo momento. Lasciamo la borsa, abbiamo parlato del volo dei titoli del settore bancario, e proprio di banche parliamo di questa mattina. Parliamo di tutti quegli strumenti di investimento che permettono ai risparmiatori di parcheggiare la liquidità in attesa di che la borsa riparta e che altri investimenti siano più profittevoli. Da qualche tempo a questa parte gli italiani hanno scoperto, a quanto pare, i pronti controtermine. Sentiamo che cosa sono. Sono tra gli strumenti preferiti dalle famiglie italiane, che li prediligono per la loro semplicità, l'aliquota fiscale ridotta e soprattutto per il breve orizzonte temporale di investimento. Si tratta dei pronti controtermine, strumenti che, complice la crisi finanziaria che ha scatenato una vera e propria corsa agli investimenti liquidi, hanno messo a segno una crescita a doppia cifra. Ma come funzionano esattamente? Si tratta di contratti, generalmente della durata da 1 a 6 mesi, massimo un anno, in cui la banca riceve liquidità contro la vendita di titoli, di solito di Stato o obbligazioni della banca stessa, impegnandosi allo stesso tempo con il cliente al loro riacquisto a termine e a un prezzo prefissato, che incorpora un rendimento. Rendimento che in base alla scadenza oscilla tra l'1 e il 3% netto a fronte di un costo del denaro in Europa che è sceso al minimo storico dell'1,5% e di rendimenti dei bot che si aggirano intorno all'1,2%. E se è vero che i conti di deposito, altri strumenti in voga in periodo di crisi, offrono un interesse superiore, bisogna considerare che il denaro in questo caso è vincolato per 12 mesi. Le banche online hanno permesso la maggior diffusione di questi strumenti, già venduti attraverso il canale dello sportello bancario tradizionale e ora sottoscrivibili anche a tagli contenuti, anche a partire da 1.000 euro. Bisogna tuttavia ricordare che i pronti controtermine presentano anche dei limiti. Non sono esenti da eventuali rischi, non sono garantiti dal fondo di deposito interbancario in caso di fallimento della banca e non tutelano il capitale dall'inflazione. Un altro fattore da prendere in considerazione è quello delle commissioni fisse che incidono sul rendimento finale. Le banche, infatti, contestualmente alla sottoscrizione del pronto controtermine, richiedono spesso l'apertura di un conto di deposito titoli che può avere un canone tra i 10 e i 50 euro l'anno ed è soggetto ad un'imposta di bollo annuale pari a 34 euro. Infine, per chi non è cliente, è quasi sempre necessaria l'apertura di un conto d'appoggio, che comporta quindi ulteriori spese. 800 24 00 24. No, stavamo un po' ridendo a microfoni spenti perché vedo già dei pittoreschi interventi da parte dei nostri ascoltatori. C'è un ascoltatore che magari poi lo contattiamo, Giorgio da Roma, che vorrebbe raccontarci di come quando volendo fare un pronto controtermine in banca si è sentito dare del troglodita dalla banca perché sceglieva questo strumento di investimento. Magari lo contattiamo telefonicamente e volentieri ci facciamo raccontare questo episodio. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi, a Pier Emilio Gadda, analista di Osservatorio Finanziario. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie di essere con noi anche a Stefano Cioffi, responsabile trading e investimenti di WeBank, la banca diretta della Popolare di Milano. Dico bene? Esattamente. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Franco Ravaglia, direttore generale del gruppo Fineco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie di essere con noi. Allora, il tema del pronto controtermine è molto interessante. Lo avevamo scoperto clamorosamente qualche mese fa, quando avevamo proprio capito come molte famiglie italiane avessero scelto di parcheggiare il proprio risparmio in questi strumenti in un momento molto difficile per la finanza internazionale, quando tutte le banche del mondo tra settembre, ottobre e novembre sembravano in procinto di fallire. Allora tutti cercavano di capire se gli investimenti che avevano fatto fossero o meno al riparo da questo scenario devastante che si stava prospettando. L'abbiamo scampata, perlomeno non dovrebbero esserci più scenari di questo tipo, anche se da questa crisi ci tireremo fuori chissà quando e chissà a che prezzo. Però Pier Emilio, aiutami tu. So che voi con Osservatorio Finanziario qualche prova sul campo di questi strumenti l'avete fatta, con che risultato? Ma questo è un prodotto che in questo momento è comunque ancora interessante. Lo era soprattutto qualche mese fa. Adesso in alcuni casi abbiamo visto che i rendimenti stanno calando. C'è da dire che comunque rispetto ad altri prodotti di liquidità, come possono essere conti correnti e conti di deposito, c'è il vantaggio del regime fiscale, che è premiante perché gli interessi vengono tassati al 12,5% anziché al 27%. Questo fa sì che le migliori offerte del mercato permettano di accedere a rendimenti anche del 3% netto, del 4% fino al 5% netto, anche se mi riferisco ai casi ad esempio di Barclays piuttosto che di Mediolanum. Sostanzialmente in questi casi è necessario che il cliente che vuole accedere a questo tipo di rendimenti sottoscriva anche altri prodotti del risparmio gestito, in una logica di cross-selling, come viene definita. Quindi infatti, io ti do dei rendimenti più alti, dice la banca, solo se tu nel contempo acquisti anche fondi o altri prodotti del risparmio gestito. E insomma, bisogna sempre essere, come dire, dei clienti un po' più importanti anche dal punto di vista economico. Anche per poter... perché in alcuni casi la soglia di accesso per questi prodotti può arrivare a 15, 25 mila, anche 50 mila euro nel caso di Barclays. In altri casi siamo invece sui 1.000, 5.000 euro, quindi si tratta di prodotti più accessibili anche anche per il risparmiatore piccolo o medio. Ecco, tra l'altro, proprio a proposito di accessibilità, in realtà il pronto controtermine fino a qualche anno fa era esattamente un prodotto di investimento, di parcheggio della liquidità destinato a portafogli molto ampi. Invece il canale online, Franco Ravaglia, direttore generale di Fineco, negli ultimi anni ha reso abbordabile, accessibile questo prodotto anche a tagli di investimento più contenuti. Sì, anche qui il trucco è semplicemente internet, semplicemente il fatto che queste operazioni possono essere fatte. Non dica trucco, perché già quando parliamo con le banche abbiamo sempre l'impressione di avere a che fare con qualcuno che così ci tratti un po' come con giochi di prestigio, no? Quindi allora, sto scherzando. Ho sbagliato il termine, voglio dire, la soluzione è internet. Molto probabilmente le banche tradizionali, per mettere in piedi operazioni del genere, hanno un po' di carta da mettere insieme. L'operatore che fa l'operazione va a prendere il titolo, lo sceglie, lo compra, lo rivende al cliente. Quando invece questo riesce ad essere messo su un processo industriale, come abbiamo cercato di fare noi, tutto è più semplice e quindi quelle famose soglie di redditività non esistono più. Quindi, tanto per fare un esempio, poi spiegheremo ovviamente anche la natura dei vostri prodotti, perché noi abbiamo chiamato due società che hanno pronti controtermine diversi. Per esempio Fineco ha nel suo prodotto come sottostanti obbligazioni bancarie di Unicredit, mentre per quello che riguarda WeBank, il prodotto di casa WeBank ha come sottostanti titoli di Stato. Quindi anche qui, per capire che poi bisogna individuare bene la natura del prodotto che si acquista. Per fare il vostro esempio, Ravaglia, il prodotto di Fineco che taglio minimo ha? Il taglio minimo è 1000 euro, ma quello che voglio sottolineare è che non è un prodotto in voga in questi giorni, è un prodotto che è in voga ormai da 7-8 anni da noi. Ormai i clienti hanno già più familiarizzato con questo tipo di prodotto. Il taglio minimo è 1000 euro, il taglio massimo non esiste e abbiamo tagli di tutte le entità. Abbiamo sia il grosso risparmiatore che ci riparcheggia le proprie liquidità, sia il piccolo risparmiatore che i risparmi marginali tiene su questo punto di vista. La crisi finanziaria ha portato più risparmiatori verso questo prodotto, secondo il vostro osservatorio? Sta parlando con me? Sì, Ravaglia, con lei, sì. Sì, anche secondo no, io vedo una costanza nell'investimento in questo tipo di operazioni. Anzi, forse vediamo qualcuno che in queste fasi di mercato in discesa esce dai pronti controtermine per cercare di prendere qualche spunto sui titoli. Stefano Cioffi, WeBank, invece il vostro osservatorio che cosa racconta? Beh, allora, noi osservando l'operatività dei nostri clienti abbiamo notato ovviamente un grosso incremento delle operazioni nel momento massimo di crisi, ovvero nei mesi di settembre-ottobre, che è culminato anche con una fase di tassi monetari a breve particolarmente elevata. Avevamo, i nostri mutui tassi, lo sanno bene, avevamo tassi monetari che sfioravano il 5%. Questo ha permesso a tutte le banche di remunerare la propria raccolta attraverso questo tipo di operazioni con dei tassi decisamente interessanti, in alcuni casi al 4-4,5%. Ovviamente l'ambito in cui anche perché in quel momento era l'unico modo di fare raccolta, esattamente. Ben diverso è lo scenario attuale. Noi abbiamo avuto forti riduzioni da parte della Banca Centrale Europea, che ha portato il tasso, come sappiamo, dal 4,25 di luglio fino all'1,5 e sembra non essere finita ancora. Ovviamente questo tipo di manovra ha avuto un impatto diretto sui tassi, a cui ovviamente i pronti termine fanno riferimento. Ma al di là di queste considerazioni sul tasso, secondo me sono molto interessanti questi prodotti per altri aspetti che abbiamo citato, ovvero la semplicità d'uso. È molto semplice operare su questi strumenti, non ci vogliono particolari condizioni e cognizioni finanziarie. La soglia d'ingresso è molto bassa, ecco. Il collega di Fineco citava 1000 euro, questo è esattamente la stessa cosa per noi, e quindi questo amplia il panel di possibili utilizzatori. Ovviamente poi fa parte questo tipo di prodotto delle politiche commerciali di ciascuna banca. Citavamo casi di nostri competitors che utilizzano questo strumento in un'ottica di cross-selling, ovvero ti do questo e ti permetto una remunerazione più alta se acquisti altri prodotti. Qui ovviamente non vorrei entrare nelle politiche commerciali delle singole banche, no. La nostra politica è quella di avere un prodotto a sé stante, semplice, trasparente e facilmente accessibile a tutti i nostri clienti. Evidentemente la vostra clientela ritenete abbia bisogno di questo. 800 24 00 24, direi di entrare subito anche nel vivo della trasmissione attraverso le considerazioni e i casi dei nostri ascoltatori. Intanto vi annuncio anche che il petrolio a New York sta tornando sopra i $50 al barile, e questa non è una notizia che ci fa particolarmente piacere, perché già immagino che domani mattina, seduta stante, il prezzo al distributore di benzina si adeguerà immediatamente. Giorgio da Roma, io non vedevo l'ora di sentirla. Anche per me, signora Deborah, lei è molto gentile. Buongiorno, Giorgio. Ma la mia è una storia drammaticamente banale. Io avevo un po' di soldi da investire, non avendo una cultura per scegliere fra i vari prodotti, mi ero orientato per questi pronti controtermine. Ogni 3 mesi andavo in banca, il funzionario gentilissimo mi faceva questa operazione. Poi ho visto che questi funzionari mi guardavano in modo un po' strano, poi alla fine ho capito che mi consideravano troglodita. Dico, come lei prende i pronti controtermine? Sì, ma non capisco di prodotti. No, voi dovete prendere altri prodotti. Ma sì, un po' come quello che va in banca, come quello che va in posta, vuole il buono fruttifero e si ritrova la polizza vita agganciata a Lehman Brothers. Insomma, il concetto è un po' quello. Poi non so se a lei è finita nello stesso modo, Giorgio, mi auguro di no. Com'è finita questa? No, invece, perciò drammaticamente, io ho investito i 4 soldi che avevo, me l'hanno suggerito loro, questi funzionari di banca, apro e chiudo parentesi, questi funzionari poi scompaiono regolarmente dopo alcuni mesi, perché in questa banca c'è un turnover eccezionale, chiusa la parentesi, mi hanno fatto prendere un fondo chiuso, mi hanno spiegato che era un'ottima cosa, un immobiliare 1 dell'Unicredit, risultato in 5 anni investendo 10 quote da €2.500 e avendole acquistate appunto a 2.500, in banca adesso me le ritrovo in borsa a 1.300. Questo è il risultato di aver abbandonato i pronti controtermini. Giorgio, certo, capisco tutta la sua amarezza, lì bisognava un po' resistere e soprattutto cercare di far capire all'impiegato di banca. Poi certo che fare la dietrologia è molto semplice per noi, che ne parliamo davanti a un microfono, no? Siamo tutti bravi col senno di poi. Però lì era il caso di insistere, insomma, è un prodotto che non capisco e quindi lasciami fare le mie scelte di investimento. No, ma infatti, sì, Giorgio, mi dica. Se avesse fatto la trasmissione con qualche anno di anticipo, io avrei resistito. Ma si immagini se avremmo potuto proteggere tutti i nostri ascoltatori da tanti errori che sono stati fatti. È qua che non ci salviamo, Giorgio, perché è molto difficile poi fare una scelta assolutamente adeguata alle nostre esigenze. E comunque è chiaro che poi tutti quanti andiamo anche alla ricerca del migliore investimento possibile, di qualcosa che ci renda Pier Emilio. Insomma, casi come questi credo che ad Osservatorio Finanziario ne arrivino. Sì, ne arrivano sui nostri blog. Purtroppo c'è questo discorso della consulenza fornita allo sportello, che non sempre è adeguata. Il cliente deve prima di tutto essere messo nelle condizioni di sottoscrivere un prodotto che capisce. Questo è fondamentale. E se viene meno questa condizione, chiaramente casi come questo possono succedere in tutte le banche. E infatti, ecco, mi chiedo che cosa c'entri si cioffi un pronto controtermine con un fondo chiuso di tipo immobiliare, peraltro. Ecco, vedo poca parentela. Non entro nel merito sull'epiteto utilizzato dal mio collega. Da noi tutto sono, tranne che dei trogloditi, sono sacri da noi clienti, e non penso solo da noi. Ecco, invece volevo dire, il vantaggio di operare online è proprio questo, cioè il fatto che il cliente è il vantaggio e svantaggio da solo con il proprio PC, quindi non c'è una pressure nel vendere determinati prodotti piuttosto che altri. Io ovviamente posso indirizzare, ma a livello di comunicazione poi è il cliente che prende in propria coscienza le proprie decisioni e decidere se investire in un fondo chiuso piuttosto che in un prodotto termine o comprarsi qualcos'altro di alternativo. Quello senz'altro, però diciamo, ritorniamo un po' sempre sull'altra grande nota dolente che fino a questo momento non ha fatto ancora decollare rispetto alle sue potenzialità il canale online. Molti piccoli risparmiatori preferiscono ancora il rapporto diretto, Pier Emilio, con il consulente, si fidano, cercano il contatto fisico, preferiscono ancora andare allo sportello, non li si può certo recriminare per questo. No. Non dimentichiamoci che il cliente che comunque sottoscrive questo tipo di prodotti online, per quanto semplice, è un cliente mediamente più evoluto rispetto al cliente che si reca in filiale e che, come abbiamo visto, poi non sa bene barcamenarsi tra un pronti controtermine, non capisce magari neanche bene la differenza, ma non per colpa sua o non solo per colpa sua, comunque non sa la differenza fra un conto corrente e un conto di deposito. Quindi è chiaro che il cliente online è più evoluto, ha una cultura finanziaria mediamente più elevata, quindi certo. diciamo corre meno rischi. E infatti, allora, tra l'altro, io adesso, al di là del fatto di come è stata fatta la consulenza a questa persona, al nostro ascoltatore Giorgio da Roma, vorrei poi ritornare sul seminato che abbiamo tracciato, cioè di spiegare comunque come funzionano questi strumenti, che garanzie hanno e che grado di remunerazione sono in grado di fornire in questo momento in cui i tassi sono in discesa, come spiegavamo all'inizio. Ci sono ancora due ascoltatori, però li farei intervenire a questo punto dopo la nostra pausa, e riservo gli ultimi 50 secondi che ci separano dalla chiusura della prima parte di Salvadanaio a Franco Ravaglia, se vuole commentare il caso che abbiamo sentito. Fineco. Il caso è difficilmente commentabile. Naturalmente io penso, spero che queste cose non accadano mai nel mondo bancario. Se è accaduto, io spero proprio che sia una cosa relativamente occasionale. Io so di quello che succede nella mia banca, nella nostra banca, anche cliente venerato, è trattato sempre nel massimo rispetto. Esistono le normative precise di riferimento, l'adeguatezza, la congruenza dell'investimento rispetto alle necessità. Se il cliente è stato trattato male, sono veramente rammaricato, ma comunque la colpa è essenzialmente della banca, non può ricadere nessuna colpa sul cliente. Infatti, allora Giorgio, speriamo insomma che la sua situazione si risolva e che magari con il recupero dei mercati finanziari, questo piccolo accantonamento che lei ha, possa recuperare qualcosa di quello che ha perso negli ultimi tempi. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi il tema scelto da Salvadanaio, i pronti controtermine, come funzionano questi strumenti per parcheggiare il nostro risparmio, anche se forse la definizione è un po' troppo affrettata. In ogni caso, molte famiglie italiane utilizzano questo prodotto proprio per questa esigenza, in attesa di capire come poter meglio investire il proprio denaro nel momento in cui si capirà quando la borsa avrà intenzione di ripartire, ma anche il mercato obbligazionario, banalmente adesso insomma siamo a tassi di rendimento assolutamente contenuti per effetto anche della riduzione progressiva dei tassi di interesse a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Io purtroppo abbiamo dovuto salutare per una questione improvvisa Franco Ravaglia, direttore generale di Fineco, che salutiamo naturalmente, e continuiamo però la nostra trasmissione con Pier Emilio Gadda, analista di Osservatorio Finanziario, e Stefano Cioffi, responsabile trading e investimenti di WeBank. Avevamo promesso anche di capire quale fosse l'offerta in Italia di questi prodotti, qual è la differenza tra un prodotto di una banca piuttosto che di un altro, differenza che attiene quasi esclusivamente anche al sottostante del prodotto, ma adesso ci andiamo nel merito di questo. Però c'è Vincenzo da Milano che ha un aspetto curioso da chiarire, perché qua non ci ritroviamo sui tagli di investimento dei pronti controtermine. Vincenzo. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io mi sono recato in una filiale della... Io faccio trading un poco con appunto WeBank. Bene. Mi sono recato ad una filiale della Popolare chiedendo di fare dei pronti per un taglio di 50-100 mila. Mi è stato risposto dal direttore che loro sotto i 500 mila non fanno i pronti. Però, guardi, c'è qua che sta sbiancando Stefano Cioffi. Allora, no, per capire, magari è pertinente, allo sportello con il canale tradizionale il taglio di un certo tipo, se uso l'online o il taglio più contenuto. Cioffi, Vincenzo rimanga lì, poi se qualcosa non le è chiaro ci aiuta di nuovo ad articolare meglio la sua domanda. Cioffi. No, sicuramente questo intervento va analizzato e quindi poi ci possiamo sentire per capire meglio se in effetti, perché 500.000 euro per... Sì, tra 500.000 e 1.000. Ecco, c'è una certa differenza. Da quello che io so, in filiale il taglio minimo per questo tipo di operazione varia tra i 25 e i 50.000 euro, quindi un po' più alto rispetto a quello che viene utilizzato per l'online, dove ripeto è di soli 1.000 euro. Comunque se così è stato comunicato, Vincenzo, farò degli approfondimenti. Lei è proprio sicuro? Le ha detto 500.000? Sì, sì, sì. Io ho chiesto, prima ho chiesto all'operatore, sì, cioè no, la faccio parlare direttamente col direttore. Poi certo, insomma, la disponibilità non era trascurabile, le dice questo è un caso che il direttore è meglio che tratti personalmente. Sì, insomma, noi li facciamo, però sopra i 500.000 li facciamo. Senta, Vincenzo, senta, perché voglio infierire ancora un po' e così girare il coltello nella piaga di Stefano Cioffi. Non è che contestualmente l'hanno scoraggiata dall'investimento in pronto controtermine perché le voleva dare qualcos'altro? Sì, sì, sì, voleva vendere qualcos'altro che non ho acquistato, però anche sul sito di WeBank. Sì. Ho provato a trovarli pronti, però non ci sono riuscito. Allora Vincenzo, vabbè, magari forse hai bisogno di prendere un po' più mano con lo strumento online. Cioffi, si trova con così tanta difficoltà, sì, al pronto controtermine? Noi abbiamo questo tipo di prodotto all'interno della nostra area investimenti e uno degli obiettivi principe quando abbiamo rilasciato questo tipo di funzione è quello di renderlo semplice e accessibile. Il cliente, dopo che ha preso visione dei tassi di remunerazione operazione sui vari periodi, non deve far altro che impostare il controvalore dell'operazione e il periodo, quindi è tutto sommato molto semplice e immediato. Poi magari risentiamo Vincenzo, magari lui diceva ho cominciato da poco a fare un po' di training, forse ancora deve prendere proprio mano con lo strumento. 800 24 00 24, numero verde ancora per i vostri interventi. Pier Emilio, parlavamo prima delle spese che devono essere sostenute per poter acquistare uno strumento di investimento come questo. Le commissioni sono abbastanza contenute, soprattutto ovviamente se si utilizza la piattaforma online, dicevamo, ma mediamente sono contenute a prescindere da questo? Sì, diciamo che le commissioni variano, come al solito, anche in modo considerevole tra una banca e l'altra. Se è vero che i rendimenti possono essere, per quanto riguarda i pronti contro termine, più alti rispetto a conti correnti, conti di deposito, però in realtà bisogna vedere anche la somma che viene investita, perché poi in realtà molti pronti contro termine richiedono l'apertura del conto corrente, l'apertura del conto deposito, quindi già lì ci sono i bolli annuali. Poi in alcuni casi quelli sono... tanto non ce li possiamo scollare neanche a morire, no, infatti. Poi ci sono le spese di tenuta conto, che ovviamente variano a seconda del conto corrente, se è un conto online in molti casi è zero, ma in altri casi il prodotto magari a pacchetto che viene acquistato in filiale è comunque ha un suo costo che, come sappiamo, può arrivare anche a 15-20 euro al mese. E poi in alcuni casi ci sono il costo di tenuta conto titoli, che anche lì può andare da 0 a 50 euro, e poi ci sono, sempre a seconda delle varie banche, le commissioni dell'operazione, che possono essere di 0 oppure anche 10-15 euro. Quindi è chiaro che se la somma investita è molto piccola, in realtà il rendimento viene logorato, eroso completamente certo. o in modo consistente. Se invece la somma è più alta, è chiaro che incide in misura... E questo probabilmente è il motivo per il quale, torniamo al discorso di prima, il canale online permette di effettuare su questo prodotto un taglio di investimento molto contenuto, Cioffi, no? Certamente, giusto? Certamente sì, e mi riferisco a quanto appena detto. Per quanto riguarda la nostra offerta, noi non prevediamo delle spese per la tenuta del conto corrente e per il deposito, che sono necessarie, ribadisco, perché a fronte di un'operazione di pronti termine la banca vende a pronti un titolo che deve essere in qualche modo depositato su un deposito di titoli aperto dal cliente. Quindi ci sono costi vivi che in qualche maniera devono però essere coperti. Ecco quello che tendo a precisare è che per l'online, e direi che parlo un po' a nome di tutta la categoria, sì, la ringrazio perché ci è venuta a mancare una bella fetta. Ecco, normalmente non sono previste delle commissioni per né sul conto né sul deposito titoli, né tantomeno sono previste delle commissioni, chiamiamole quelle che normalmente vengono definite accessorie, dove non si capisce mai a che cosa rientra in questa fattispecie. Non ci sono commissioni, quindi il rendimento che noi proponiamo al cliente è un rendimento netto e pulito, punto e fine. Investo 1000 a un determinato tasso per un determinato periodo di tempo e quello sarà il rendimento dell'operazione, pulito. Allora, a proposito del riscatto, diciamo, e della conclusione della vita di questo prodotto, c'è in realtà chi si interroga sulla possibilità o meno di poterli riscattare in anticipo, e questo era un tema che, tra l'altro, nel momento clou della crisi di qualche mese fa di cui parlavamo prima, è effettivamente stato, come dire, un interrogativo che ha pervaso molti, perché molti volevano riportare il denaro in casa, riportarselo nel materasso senza pensarci più. Calogero da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Noi stavamo parlando... Complimenti per la trasmissione. Grazie, Calogero. Ecco, io volevo fare una domanda. Io in precedenza avevo investito in pronti controtermine. Visto la crisi, volevo riscattare prima il denaro della scadenza. Ecco, mi sono recato in banca, la banca mi ha detto che non è possibile. Però, visto il regolamento dei pronti controtermine, verificato che qualora la banca ha una diminuzione di capitale oppure presenta un rischio di insolvenza, era possibile riscattare, ma la banca mi ha risposto di no. Ma perché lei si sta rivolgendo ad una banca, ma per fortuna, Calogero, che non ci sono queste condizioni. Sì. Una fortuna, sì. Però lei dice nulla. Per però quale motivo? Volevo riassicurarmi, perché eravamo in un momento di crisi, anche tutt'oggi, però mettere del denaro in cassa. Quanto dura il suo prodotto, Calogero? Che tipo di pronto? Era un prodotto pronto contro termini, sì, con una scadenza di 3 mesi. Però volevo riscuoterlo prima e mi è stato detto di no dalla banca. E credo che la sua banca abbia ragione, Pier Emilio. Noi abbiamo fatto... Stavo chiamando, sì, mi vuoi aiutare tu, sì. Noi abbiamo fatto un'indagine sulle principali banche che offrono questi prodotti. In effetti il nostro ascoltatore ha ragione. In molti casi la banca non accetta che il prodotto venga riscattato prima, o se no, in alcuni casi fa comunque pagare una penale. Mi chiedo, Calogero, voglio dire, se è un prodotto che dura 3 mesi, l'avrà comprato da poco, che cosa è cambiato in questi giorni? Ciofi. Sì. Per prima cosa, che il prodotto di termine è un contratto tra due parti, dove da una parte c'è la banca e dall'altra il cliente. Quindi il contratto prevede la non possibilità di svincolare prima del termine. Quindi è facoltà della banca non dare luogo all'indicazione del cliente che vuole anticipare o riscattare l'operazione. Questo non preclude la possibilità, in alcuni casi e per giustificati motivi, mi verrebbe da dire, da parte della banca, di poter assecondare quelle che sono le volontà del cliente. Rientra un po' nella sfera, però, discrezionale della banca. Prodotto, però lo può fare. È un po' come quando andavamo a chiedere. Però la banca non è un contratto a termine, e quindi teoricamente il termine dovrebbe essere rispettato. E anche nella pratica, possibilmente. Questo spiega anche perché molti risparmiatori in realtà preferiscono un conto corrente o un conto di deposito, perché lì, trattandosi di un deposito a vista, è uno strumento veramente liquido, mentre il pronto contro termine viene trattato normalmente tra i prodotti di liquidità, però non è uno strumento veramente liquido, perché ti vincola per un periodo che sarà limitato, però in ogni caso ti vincola. Ecco, è più facile Cioffi smontare, chiamiamo così, o riscattare in anticipo un pronto contro termine che ha come sottostante un titolo di Stato o un'obbligazione bancaria? Allora, voi avete i titoli di Stato. Smontare, come ho ribadito, come ho detto prima, non è possibile. Il tema del sottostante è un tema che direi era di gran moda nel periodo clou della crisi, dove c'era qualche timore sulla solvibilità della banca, e quindi il cliente che aveva effettuato un'operazione di pronti termini si chiedeva cosa succede se fallisce la banca. Ecco, fortunatamente non ci sono stati casi di questo tipo, perché la banca ovviamente è tenuta, come dicevo appunto prima, essendoci un contratto tra le parti, a onorare alla scadenza il proprio contratto. Detto questo, nel caso certo malaugurato in cui la banca non riuscisse a ottemperare a quelli che sono i propri doveri, il cliente in possesso di un titolo a garanzia del proprio deposito, nel caso di un titolo di Stato, è facilitato nel poterlo rivendere sui mercati regolamentati o sui mercati dove vengono trattati questi titoli. Quindi dal punto di vista della liquidità è facilitato. Ovviamente con un sottostante di obbligazioni bancarie è un po' più complicato. Continua l'esplorazione di Salvadanaio questa mattina nel mondo dei pronti controtermine, tra l'offerta che viene praticata dai vari attori sul mercato nel nostro paese, ma in realtà stamattina stiamo proprio prendendo così in termini generali la natura del prodotto per capire come può essere composto, quanto ci può costare, quanto ci può rendere. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Sentiamo Alessandro da Roma. Alessandro? Pronto, grazie Radio 24 di esistere innanzitutto. Meno male. È una piccola testimonianza mia, come felice pensionato ormai da 6-7 anni di primaria e antichissima banca italiana. E negli ultimi 10 anni di carriera ho lavorato proprio dove? Nella finanza estero. In base a questa mia esperienza, da 6 anni a questa parte tutta la mia liquidazione è in pronti contro termine, d'accordo? Ho il vantaggio di non avere spese di conto in quanto dipendente, non ho spese di deposito. Che purtroppo non tutti hanno, però. Indipendentemente da questo, l'importante è non considerare il pronti contro termine come un prodotto, come sento spessissimo dire, ma considerarlo come è un contratto di borsa che va immediatamente contrattualizzato e sottofirmato. Questo già è stato ribadito, ma il cliente, anche se sprovveduto, deve sapere questo. È un contratto di borsa che tramite intermediario finanziario viene portato a giusto termine. E secondo, come ho sentito già in vari interventi, è importantissimo che il titolo sottostante sia, se non proprio della banca che te lo emette, magari della banca che te lo emette, ma magari estero, irlandese, paesi europei. Cioè lei ci sta suggerendo di stare in guardia da quale tipo di pronto contro termine, Alessandro? Le contrattualizzazioni non è un prodotto, è un contratto di borsa. In questo io da 6 anni ho solo e soltanto 3 o 4 azioni, mi sono rimaste nel deposito di titoli, ho sempre e soltanto dato la mia liquidazione a pronti contro termine. Almeno vivo tranquillo. Vive tranquillo. Grazie. Alessandro, grazie a lei, si figuri. Tra l'altro, a proposito dei sottostanti che stavamo analizzando rispetto ai vari prodotti che sono sul mercato, tornando al caso di WeBank, perché qui abbiamo stamattina Stefano Cioffi, responsabile trading e investimenti della Banca Diretta della Popolare di Milano, il vostro sottostante, il sottostante del prodotto che voi veicolate attraverso il canale online è proprio il titolo di Stato, che tra l'altro ha un rendimento adesso piuttosto contenuto, paragonabile a quello del BOT. Allora, secondo lei, se io fossi una vecchietta e viene in banca da lei a chiedere ma perché invece del BOT mi devo comprare il pronto controtermine, qual è il vantaggio? Allora direi che la situazione sui tassi monetari, un investimento in pronti termine piuttosto che in un BOT di pari durata al momento è abbastanza similare. Bisogna forse allargare un pochettino il tiro e andare a vedere quelle che possono essere le spese. Citavo prima, per un'operazione di pronti termine non sono previste delle spese per questo tipo di operazione, mentre l'acquisto di un BOT prevede delle spese per l'eseguito che noi andiamo a fare per conto del cliente. Ma direi che sono strumenti che in questa fase di mercato, e questo varia un po' appunto dall'evoluzione dei tassi a breve, sono abbastanza equiparabili. Quindi, tra l'altro, Pier Emilio rilevava invece come lo stesso prodotto prima avesse come sottostante un'obbligazione bancaria. Sì, esatto, aveva prima un'obbligazione, se non erro, della Cassa del Gruppo, risparmio, sì. Alessandria, quindi una banca del gruppo. Adesso invece abbiamo un titolo di Stato. Chiaramente questo ha fatto sì che il rendimento scendesse dal 2,20% mi pare netto di prima sul vincolo a 6 mesi allo 0,70 di oggi, se non sbaglio. Tra l'altro anche il prodotto di Fineco ha obbligazioni bancarie di Unicredit come sottostanti, ma non riusciamo a farci spiegare meglio appunto il suo funzionamento. Detto questo, poi non è che ci interessi a noi, così piace stamattina capire un po' in senso generale qual è il funzionamento del prodotto pronto controtermine. Santino da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere appunto, perché ho acquistato un pronto controtermine a 3 mesi dalla mia banca, ma loro non mi hanno venduto il pronto controtermine con titoli di Stato, ma bensì con un'obbligazione di un'altra banca, che può essere Unibanca, Unicredit o quello. Ecco, se dovesse per problemi non aver più diciamo solidità questa banca, il mio pronto controtermine è sempre garantito, il rimborso, la scadenza, oppure... Santino, la ringrazio. Sì, allora ribadiamo di nuovo tutto il vademecum del prodotto nei termini della sicurezza. Fatto salvo il concetto che nessuna banca fallirà nel nostro paese, perché c'è un impegno formalizzato dal governo qualche mese fa, e fatto salvo anche il fatto che le nostre banche si trovino in una situazione ben diversa rispetto a tutto lo scempio che stiamo vivendo a livello internazionale, e siccome molte banche stanno anche ricorrendo per ripatrimonializzarsi ulteriormente ai famosi Tremonti Bond, se comunque abbiamo ancora paura, Pier Emilio, aiutami. In realtà sì, il rischio emittente è implicito nell'operazione, quindi nel caso assolutamente imprevedibile, come dicevi tu, che si andasse incontro a un default della società emittente, ci sarebbero dei grossi problemi per chi ha sottoscritto il prodotto. Tanto per fare un esempio pratico, uso la Popolare di Milano perché sta qua, vengo alla Popolare di Milano, voglio comprare un pronto controtermine da voi che ha come sottostante magari l'obbligazione che dicevamo prima. Se la passa male la Popolare di Milano, è un problema per il contraente che ha sottoscritto il pronto controtermine. Se la passa male la Popolare di Milano non basta, bisogna che la Banca Popolare di Milano al termine dell'operazione non sia in grado di riacquistare il titolo, quindi sia insolvente a tutti gli effetti, l'abbiamo commentato prima. Come ulteriore garanzia c'è appunto il tema del sottostante. Allora, il sottostante, se è un titolo di Stato, il cliente può venderlo sul mercato tradizionale; se è un'obbligazione bancaria, dovrà trovare un canale dove andare a vendere l'obbligazione bancaria sottostante. Quindi, utilizzata dalla banca per rispetto alla scadenza del prodotto, che è di 3 mesi, magari la restituzione si procrastinerebbe nel tempo, però tutto sommato dovrebbe, ma insomma adesso non torniamo più neanche a parlare di questi argomenti, perché già ne abbiamo avuto fin troppo di questo clamore intorno a possibili fallimenti tra settembre e ottobre, non vogliamo più sentir parlare. Momento difficile, continuerà ancora un po', passerà, speriamo prima o poi. Antonio da Milano, ritorniamo in termini tecnici ai prodotti. Buongiorno. Buongiorno. L'ultima domanda e le chiedo di farcela in maniera brevissima. Brevissima. ho un dubbio sulla disponibilità della valuta dopo quanti giorni alla chiusura di un contratto contro termine, perché faccio un esempio pratico, io ho visto una chiusura a 16 marzo, ma la valuta non è ancora sul conto. Grazie Antonio, allora ci aiuta ancora Stefano Cioffi. Sì, la valuta è quella del giorno di scadenza, quindi al termine dell'operazione di pronti termine lei o il giorno successivo, sicuramente non di più, deve avere la propria disponibilità sul proprio conto per poter operare. Quindi questo, insomma, poi magari Antonio ci scriva, forse una questione problematica legata alla natura del prodotto che ha acquistato, ma la valuta dipende, ovviamente, non lo so, magari il prodotto più liquidabile facilmente se il sottostante è il titolo di Stato, non cambia niente. Assolutamente niente. I pronti termine hanno come valuta 3 giorni, quindi se io acquisto il lunedì il giorno di valuta sarà giovedì, quindi a T+3. Allora, la nostra trasmissione sta volgendo al termine, io vi ringrazio per essere stati con noi, abbiamo delle ultime raccomandazioni da fare che ci siamo dimenticati, Pier Emilio Gadda. Ma io direi di no, direi quello che abbiamo detto prima, quindi prima di acquistare un prodotto cercare sempre di avere le idee chiare su quello che si sta acquistando, questa è la prima regola assoluta quando si fa un investimento anche semplice come le pronti contro termine. Cioffi, avete intenzione di mettere sul mercato qualche altro pronto contro termine con altri sottostanti o al momento fermo? La nostra politica su questo tipo di prodotto rimane invariata e posso augurare buon trading a tutti i nostri ascoltatori. grazie a voi due di essere stati con me, di aver resistito fino alla fine. Ravaglia non ce l'ha fatta per altri problemi, poi lo saluteremo in privato. Grazie a Gaia Romani, Valeria Coffaro per la collaborazione come sempre in redazione, oggi Peter Bescapena assistenza tecnica, Salvadanaio torna domani, noi ci risentiamo domattina alle 8:15 anche a Soldi e Dintorni. Buona giornata a tutti.